Ma la notizia che è uscita stamattina è stata richiesta all'archiviazione anche per le indagini sulla morte di Salvatore Sassà Piscitelli. E per fare un piccolo riassunto delle puntate precedenti, diciamo, il fascicolo delle indagini sulla morte di Salvatore era l'unico che era rimasto aperto a seguito delle archiviazioni delle altre 8 morti, invece, dei morti di Modena, e avvenuta l'anno scorso. Quindi diciamo che è stata richiesta, cioè, si chiede proprio di mettere una pietra totale, completa, sopra la vicenda. Per questo motivo oggi non ci siamo svegliati bene, non lo nego, non è un buon giorno, però rispondiamo con tutta la rabbia che abbiamo in corpo, nel senso, per questo motivo vi chiedo veramente di venirci ad aiutare questo weekend, facciamo vedere alle istituzioni che non ci arrendiamo e che non abbiamo nessuna intenzione di fare passi indietro. Durante quelle rivolte a Modena non ci furono gli unici, diciamo, morti, ma fu un problema anche in altre carceri, però il numero maggiore appunto riguarda il Sant'Anna di Modena. La giustizia ha cercato di archiviare ovunque o a Modena in modo particolare? Ma la giustizia ha cercato di archiviare ovunque le morti, questo sì, nel senso che queste 13, o meglio 14 persone sono state tutte dichiarate morte per metadone, praticamente un grandissimo suicidio di massa. Però invece rimangono aperti alcuni fascicoli, soprattutto quelli che riguardano l'utilizzo appunto di metodi di tortura, e questo fascicolo rimane aperto anche a Modena. E diciamo che sull'onda di quello che è il risultato e quello che si sta vedendo di Santa Maria Capua Vetere, siamo abbastanza fiduciosi, crediamo che almeno lì qualcosa verrà detto. E però il fatto è che non possiamo pensare che appunto 14 persone in Italia siano morte lo stesso giorno perché hanno ingerito metadone. Sappiamo bene che su Modena, come ha giustamente messo in luce l'inchiesta di Maria Elena Scandagliato e Giulia Bondi, che è uscita su Rai News 24, ci sono ancora tanti buchi neri, le tempistiche non coincidono. Un esempio che facciamo sempre è Afed Shoshan, è stato refertato nudo al momento in cui è stata appunto refertata la sua morte. Nel momento invece dell'autopsia il medico dice che era vestito con i blister di Xanax in tasca. Ora, io credo che i morti non si vestano da soli, quindi tutto questo ha bisogno di chiarezza, e per questo motivo appunto, come dicevo, vi chiediamo veramente il supporto di questa rete nazionale che si è creata anche grazie alle radio come voi che ci stanno aiutando molto. Cerchiamo di essere tanti tanti a Modena questo weekend, perché è l'unica forza che abbiamo, ma a un certo punto non potranno più ignorarci. Cosa succederà in questi due giorni? Allora, in questi due giorni succederanno un sacco di cose, nel senso che abbiamo cercato di fare un evento che parlasse a più gente possibile con metodi diversi. E la sera del venerdì alle 18 al comparto Ex Macello e presso lo Spazio Nuovo ci sarà l'assemblea pubblica, in cui appunto faremo un attimo il punto di quello che è successo in questi due anni e presenteremo il secondo anno del nostro dossier. E dopodiché ci sarà appunto la proiezione, come dicevo prima, dell'inchiesta di Maria Elena Scandagliato e Giulia Bondi alle 20:30, e alle 22 invece il concerto di Dandy Bestia, Giorgio Canali e la Banda Popolare dell'Emilia Rossa. Tutti i fondi ricavati dal concerto andranno per il rimpatrio della salma di Afed. Dobbiamo riportare Afed a sua madre, gliel'abbiamo promesso, e quindi chiediamo una mano anche in questo. Il giorno dopo invece saremo in piazza, perché ci si è resi conto che i modenesi, Modena, ne sa poco della vicenda, molto poco, e quindi è importante uscire da quelli che sono i nostri luoghi più abituali, andare in mezzo alla gente. Quindi saremo in tre piazze: la prima è il Largo Garibaldi, dove ci sarà uno spettacolo di danza contemporanea; la seconda è Piazza Sant'Eufemia, che ha anche un significato simbolico perché è stata teatro di una fortissima repressione, un fortissimo atto repressivo nel momento dello sgombero delle occupazioni abitative, e lì ci sarà un reading di poesie a cura dei Modena City Rhymers. E nel frattempo allestiremo una mostra su noi stessi, diciamo, che racconta la storia delle 9 persone morte, perché anche questo è importante, dobbiamo far capire alle persone che non erano numeri o solo nomi, ma che dietro quei nomi e quei numeri ci sono delle storie personali. Dopodiché invece finiremo alle 18 in Piazza Pomposa, dove lo Aiuta Caffè ci aiuta facendoci fare di nuovo un benefit, una birra per i detenuti, e le birre, insomma, diciamo, saranno decorate con i nostri stickers, e quindi vi invitiamo a darci una mano anche lì, perché di nuovo i fondi raccolti andranno per il rimpatrio della salma di Afed. Dove trovare tutte le informazioni? Tutte le informazioni le trovate sia su Instagram che su Facebook, seguendo Consiglio Popolare. Quindi Consiglio Popolare Sciopero Italpizza siamo noi. Il comitato, di questo forse avevamo già parlato in passato, il comitato nasce come una costola appunto del Consiglio Popolare, che dall'8 marzo 2020 ha deciso appunto a testa bassa di non demordere sulla questione della strage di Modena. Quindi trovate lì tutte le informazioni, non esitate a contattarci sia sulla pagina Facebook che su Instagram, e risponderemo a tutte le vostre domande.